Musica Maestro di Armando Torno. Un cordiale saluto ad Armando Torno e un augurio di buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. La puntata di oggi è in collegamento con il Vittoriale, precisamente con Giordano Bruno Guerri, che è presidente della Fondazione del Vittoriale degli Italiani. Ricordo Giordano Bruno Guerri, oltre che essere insomma un personaggio celebre, è anche uno storico di caratura. Gli ultimi due libri sono uno dedicato alla mia vita carnale, che è un po' l'avventura di D'Annunzio al Vittoriale, a Gardone, e l'altro a Italo Balbo. Però poi sentiremo da lui direttamente che cosa ha scritto, cosa ha fatto, cosa ha organizzato, cosa ha fatto in questo periodo, ma anche un po' prima. Allora, buonasera Giordano Bruno Guerri. Buonasera a lei e buonasera a tutti. Allora, la mia vita carnale è dedicata ad D'Annunzio, no? Sì, ovviamente è la sua vita carnale, la frase è tratta da una sua lettera a Eleonora Duse, dove appunto rivendica il diritto alla sua vita carnale, alla sua vita spericolata ben prima di Vasco Rossi e alla sua vita avventurosa. Senta. Ed è la storia della vita quotidiana di D'Annunzio al Vittoriale, del suo rapporto con il corpo, con la fisicità, quindi anche con la natura, con gli animali, con la bellezza. Senta, so che avete una stagione del Vittoriale che mi pare chiuderà tra qualche giorno, no? Una stagione notevole di musica, di arti, di danza, eccetera. Beh, io sono particolarmente fiero del nostro festival che si chiama Vittoriale Teneramente, un gioco di parole di D'Annunzio che così spesso concludeva le sue lettere alle sue donne, tener trattino a trattino mente, nel doppio senso. E ormai siamo alla quarta stagione della nuova gestione. Io, non essendo un imprenditore di spettacoli, ho dato in gestione la stagione teatrale con grandissimi risultati, perché abbiamo sempre, come si dice, overbooking, e gli spettacoli del Vittoriale ormai sono classificati fra i primi 10 festival di spettacolo italiani. Ecco, Giordano Bruno Guerri, un'altra cosa: D'Annunzio amava la musica ed era amico di musicisti. Avete trovato qualcosa in proposito? So che lei ha scoperto parecchie carte inedite di D'Annunzio, cose nuove, eccetera, eccetera. Beh, D'Annunzio era un melomane e uno dei motivi per cui ha comprato quella casa era perché era di proprietà di Erich Stöder, uno studioso tedesco che aveva sposato una nipote di Liszt e aveva in casa il pianoforte di Liszt, che adesso è alla Scala, e ascoltava con grande passione Wagner, Puccini, ma Debussy, che era un suo amico personale che ha lavorato con lui, ma anche musica più contemporanea, Pizzetti per esempio, e verso la fine della vita scoprì il jazz con grande entusiasmo. Senta, ora salutiamo D'Annunzio, salutiamo lei che è il presidente, lei è un po' il vice D'Annunzio, Giordano Bruno Guerri. La vedova di D'Annunzio, i presidenti del Vittoriale si dichiarano vedove di D'Annunzio in quanto incaricati di conservare e valorizzare le cose e la memoria del defunto. Ecco, la vedova di D'Annunzio. Preferisco dire che sono l'amante di D'Annunzio. Lui non trattava molto bene la moglie, trattava meglio le amanti. E vabbè, allora lei, ultimo amante di D'Annunzio, diciamo così, rendiamo un omaggio al vate, al poeta, al grande musicofilo. Allora, Giordano Bruno Guerri, diciamo pure che questo festival è andato benissimo, avete sempre il tutto esaurito, il tempo è stato un po' inclemente, però in fondo c'è D'Annunzio che vi protegge. Beh, quando io assisto agli spettacoli decido che non piova e non piove mai, per cui devo dire siamo stati veramente fortunati. Ma a questo proposito io devo rivolgere un ringraziamento ai gestori della stagione teatrale, che sono bravissimi, Viola Costa e Luca Faustini, che hanno organizzato oltretutto un sistema di prevendite per cui noi vendiamo l'80% dei biglietti online, con visitatori da ben 33 paesi del mondo, a parte quelli usuali, Francia, Germania, Austria, eccetera. Addirittura biglietti venduti in Nuova Zelanda, in Lettonia, in Giappone, gente che evidentemente non so se viene apposta dai loro paesi per venire al Vittoriale. Beh, è un'occasione, no? È un'occasione. Ma ecco, D'Annunzio comunque è noto in tutto il mondo, no? D'Annunzio è noto in tutto il mondo. Io una delle cose di cui sono stato più felice è che all'inizio di quest'anno Google, comunicando milioni dei propri dati, uno dei dati diceva che D'Annunzio è stato il poeta italiano più cliccato nel mondo dopo Dante. Quindi... E scavalcando Leopardi, del resto D'Annunzio diceva: la poesia italiana nasce con Dante nel 200 e rinasce con me 7 secoli dopo, scavalcando Petrarca, Leopardi, eccetera. Ecco, abbiamo realizzato questa sua volontà. Ecco, ma io volevo adesso far ascoltare un brano, perché abbiamo parlato di Wagner, io oserei parlare di Orff è contemporaneo di D'Annunzio, morirà molto dopo, però negli anni 30 ecco che si vengono riscoperti Carmina Burana grazie al ritmo, grazie all'impeto di Orff, e direi che c'è qualcosa del superuomo, c'è qualcosa di D'Annunzio, c'è qualcosa in fondo del mondo che gli appartiene. Ecco, Giordano Bruno Guerri, cosa possiamo dire della fortuna e di D'Annunzio? Beh, D'Annunzio avrebbe potuto scrivere: dov'è la fortuna mi porga la chioma che mia schiava io la creò. Lui aveva una tale volontà di successo e una tale convinzione di sé e le doti per realizzare tutto questo che ebbe fortuna in tutto. Letan, quando morì D'Annunzio, scrisse un bellissimo epitafio perché diceva: è morto un uomo che non solo ha saputo realizzare tutti i propri sogni, ma che ha saputo farli sognare agli altri uomini. Non saprei cosa dire di più. D'Annunzio ha avuto fortuna in tutto con la sua opera letteraria, di grande innovatore, ancora importante, con le donne naturalmente, con le sue imprese di guerra, come esteta, come dandy, e con tutto quello che gli piaceva lui è riuscito ad averlo, perfino conquistare una città come un condottiero rinascimentale con l'impresa di Fiume, oltre a lasciarci come memoria eterna della sua vita proprio umana, questa grande casa museo che è unica al mondo e dove sembra di fare un viaggio nel tempo, perché tutto è rimasto immutato dal giorno della sua morte, il 1 marzo del 38, e nella prioria, i suoi appartamenti, si ha l'impressione di vederlo comparire da un momento all'altro dietro un angolo. Ecco, ma nel suo libro La mia vita carnale, che è la vita carnale di D'Annunzio, che cosa tratta Giordano Bruno Guerri? Può riassumerlo per i nostri ascoltatori, anche magari da un punto di vista così proprio pratico, anche perché invitiamo loro a leggere le sue opere, lei è uno storico di fama, Io ho usato molto per questo libro il diario inedito di Amélie Mazoyer, che era la governante francese di D'Annunzio fin dal 1910 e che è rimasto con lui fino alla fine. Era naturalmente una governante tuttofare, governante, amante e curatrice delle badesse di passaggio, come le chiamava D'Annunzio, cioè le amanti passeggere che arrivavano lì per un'ora o per mezza giornata al massimo. Quindi è un diario intimo, molto singolare, perché come sappiamo nessun uomo è grande per il suo cameriere, né tantomeno per la sua amante, per cui si vede proprio il D'Annunzio spicciolo quotidiano alle prese con problemi fisici, con problemi economici, problemi soprattutto di gestione dei rapporti, perché le donne in casa erano due, c'era appunto Amélie detta Elis, per richiamo a Elica, con un gioco di parole che richiama giochi sessuali, e la grande pianista Luisa Baccara, che era ufficialmente la padrona di casa, ma da molti anni ormai non aveva più diritto a rapporti sessuali con D'Annunzio. Per cui c'era una situazione assurda di queste due donne che D'Annunzio faceva vivere vicino al suo studio, in una parte del vittoriale chiamata La Clausura, non a caso, dove le due donne, l'amante ufficiale e l'amante vera, condividevano addirittura il bagno. E io ho molto scavato questa situazione umana, tragica per certi versi, umoristica per altri, dove D'Annunzio mostra tutto il suo essere satrapo e avido di qualsiasi cosa. Vabbè, una pianista e una cameriera che si ritrovano intorno al vate, in questo luogo senza tempo, questo luogo indefinito, questo luogo immaginifico che è il Vittoriale, e Giordano Bruno Guerri che ci ha accompagnato per qualche stanza. Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Turno dei microfoni di Radio 24. Questa sera siamo in collegamento con Giordano Bruno Guerri, storico, ma soprattutto presidente della Fondazione del Vittoriale degli Italiani. Ricordo due libri, ma potrei ricordarne molti, molti altri. Giordano Bruno Guerri è uno storico di chiara fama, e La mia vita carnale, che è una ricostruzione proprio degli amori di D'Annunzio al Vittoriale, o almeno qualcosa forse in più degli amori, e poi Italo Balbo, il grande aviatore, l'uomo che in qualche modo diede anche molta gloria all'Italia. Però Giordano Bruno Guerri, ricordo che ha dato anche molte altre monografie, biografie, altri studi. Basta cliccare il suo nome su Google e subito esce una serie di libri che lui ha scritto, di contributi che ha fatto, di scoperte che ci ha dato, mettendomi anche qualche volta nei pasticci, perché io mi ricordo con il libro Povera Santa e Povero Assassino su Santa Maria Goretti venni travolto da Giordano Bruno Guerri, ma gli ho perdonato tutto perché è amico, e quindi non possiamo a un certo punto, ogni volta che un amico ci combina qualcosa, anche tenergli il broncetto. Ecco, ma detto questo, Giordano Bruno Guerri, e al di là della mia battuta, ci ha promesso di parlarci di D'Annunzio e il jazz, e quindi cos'è successo? Beh, forse conviene spiegare perché travolsi con Povera Santa, Povero Assassino, un cardinale Palazzini, che era prefetto per la congregazione della Casa dei Santi, mi definì ufficialmente in una conferenza stampa strumento del demonio, cosa che mi offese anche un po', perché a quel punto avrei preferito essere il demonio in persona, ma capisco che potesse essere imbarazzante per alcuni miei amici frequentare uno strumento del demonio. No, non mi era imbarazzante, è che io dovetti scrivere di corsa un pezzo, e tra l'altro chiedendo a Giordano Bruno Guerri e chiedendo alla Chiesa, quindi fu una giornata terribile della mia vita, insomma, ecco. Fu una giornata di grande equilibrio. Sono cose che succedono ogni tanto, ma e allora quando mi capita lo ricordo Giordano Bruno Guerri, perché mi fece lavorare sino a notte fonda, insomma, ecco. Ma al di là di questo gli ho perdonato. Era il 1985. Insomma, di acqua ne è passata sotto i ponti, quasi però 30 anni fa. Però io mi ricordo ancora quella grande lavorata notturna, insomma, ecco. Ma al di là di questo, Giordano Bruno Guerri, perché D'Annunzio si occupò di jazz, o come mai? La domanda è un po' questa. Raccontavamo appunto di Elis Mazoyer, fu lei che lo introdusse al jazz, una donna forse stanca dell'altra, Luisa Baccala, che suonava Chopin, era appassionata di jazz, portò dei dischi, D'Annunzio amava molto sentire musica al grammofono e impazzì per il jazz, compriamo altre band, scrive in una lettera di Elis, e abbiamo una raccolta notevole di musica jazz, e infatti anche quest'anno abbiamo voluto onorare questa versione di D'Annunzio e dei nostri visitatori facendo tre spettacoli di alta qualità di jazz. C'era il sassofonista Stanton, e poi è venuto Walter Veltrami, e poi Bobo Stanton. E questi spettacoli si sono svolti in un posto fra i più belli che ci siano al mondo, io credo, cioè il Laghetto delle Danze, questo lago che D'Annunzio fece costruire a forma di violino in onore di Gaspare da Salò, inventore appunto del violino, che viene colmato con l'acqua dei due fiumicelli, l'acqua pazza e l'acqua saggia, che scendono giù dalla prua della nave Puglia, ed era un luogo, ahimè, completamente abbandonato da decenni. C'era ricoperto da una vegetazione ormai tipo foresta amazzonica. Il primo marzo del 2013, per i 150 anni della nascita di D'Annunzio e l'anniversario della sua morte, abbiamo ripulito il laghetto, riaperto tutta la zona delle vallette, e ci facciamo dei concerti, degli spettacoli. Alessandro Haber quest'anno, nell'ambito del festival, ha recitato delle lettere di d'amore e di passione di D'Annunzio inedite alla contessa Mancini, quella di Solus Solam, per intendersi, la passione più erotica della sua vita. E abbiamo fatto questi tre concerti jazz bellissimi, perché il luogo è veramente di una suggestione straordinaria. Voglio aggiungere che una ditta, forse non la nominiamo, ma importante, di lampada e illuminazione, ci ha fatto gratuitamente, come omaggio al Watt, un'illuminazione di rara bellezza. No, ma possiamo anche nominarla, quando una ditta offre... È la Flos, è la Perfetto. Flos. Ma dov'è il problema? Che le rendiamo onore, perché è stato un dono generoso. Perfetto. Lei sa che il motto di D'Annunzio, che domina l'ingresso del Vittoriale, io ho quel che ho donato, per cui onore. Ma ci mancherebbe, se qualcuno fa qualcosa per l'arte in un paese dove non si possono fare le detrazioni, almeno ricordiamolo noi. Non è pubblicità, è un senso della notizia, del dovere. Tra l'altro, lei, Giordano Bonoguerra, ha ricordato Gasparo da Sarò, inventore del violino. Tenga presente che qui domani mattina pioveranno le proteste da quelli di Cremona, perché sono guardinghi e non vogliono assolutamente sentir parlare dell'invenzione del violino a Salò, e viceversa a Salò non si vuole sentire parlare di Cremona. È una guerra di campanili italiana che non finirà mai. Però io faccio da arbitro e dico come vanno le cose. Ecco, ma allora il jazz, quindi il jazz che entra nella vita di D'Annunzio, D'Annunzio che si innamora del jazz, lascia in un canto la cara Baccara con il suo Chopin, le sue cose. Ecco, D'Annunzio quindi ha sempre sorprese, Giordano Bonoguerra. Oltre il jazz, che cosa potrà saltar fuori? Voi avete ancora parecchi inediti? Noi stiamo acquistando man mano degli inediti, perché questa nuova vitalità di D'Annunzio del Vittoriale ha riaperto un mercato che era piuttosto statico ed era fermo, per cui i prezzi naturalmente sono aumentati, e chi deteneva dei datiloscritti, soprattutto lettere, che sappiamo che lui era un grafomane, che scriveva decine di lettere al giorno, e disprezzava il telefono che aveva ma che non usava, per cui capitano sempre più di frequente occasioni di acquisizione di documenti, sì. E quindi c'è praticamente una cosa in progresso, ogni anno avete qualche cosa da dire, insomma, ecco, su documenti, sì, su cose trovate. Devo dire di sì, sia dal punto di vista strettamente culturale d'annunziano. Adesso il 26 novembre faremo un grande convegno su D'Annunzio e la guerra, la prima guerra mondiale, verrà Sergio Romano, Paolo Mieli, studiosi stranieri, e poi anche dal punto di vista artistico, perché se la casa di D'Annunzio non si tocca, non si sposta neanche un piccolo oggetto, il parco può essere, a mio parere, abbellito, arricchito con opere d'arte. Abbiamo avuto un dono magnifico da Mimmo Paladino, un cavallo, un obelisco di Arnaldo Pomodoro, quest'anno un'installazione di Italo Rota che permette oltretutto con un telefonino di mettere un telefonino dentro un corno infisso nel terreno e di scegliere un brano di D'Annunzio in italiano o in inglese e lasciare un ricordo di D'Annunzio che poi viene messo nel sito del Vittoriale e ridiffuso nel mondo. Insomma, mi piace fare queste cose perché D'Annunzio, contrariamente a quello che si crede, bollandolo come decadente e passatista, D'Annunzio era un innovatore, amava tutto ciò che è nuovo. Bene. Per esempio, lui si suppone di prima a farsi costruire un cinema in casa e a me fa tenerezza avere scoperto che tra i film che vide, che vedeva, c'era Lo Sceicco Bianco, dove recita Alberto Sordi. Il fatto che D'Annunzio abbia visto Alberto Sordi me lo rende quasi contemporaneo, certo, oltre tutto il resto. Certo, ma c'è anche forse Italo Balbo che le fa ricordare le, così, le grandi diciamo così imprese aviatorie che andavano al di là dell'oceano, no? E quindi riscoprivano in certo modo il jazz. Non solo, D'Annunzio fu l'inventore del volo moderno civile, ma D'Annunzio fu, Balbo fu anche l'unico gerarca fascista filoamericano, perché essendo stato in America, amando quella cultura e quella quell'attenzione alla tecnologia e alla modernità, Balbo fu sempre un appassionato dell'America. E quando Mussolini diceva ma noi in caso di guerra batteremo gli Stati Uniti, Balbo gli disse ma tu l'hai mai visto l'elenco telefonico di New York? Che allora era già il triplo di tutti gli elenchi telefonici italiani. E quindi praticamente solo per il volume dell'elenco telefonico si capiva che avremmo perso la guerra. Senta Giordano Bruno-Guerri, c'è poi l'altro musicista che lei ha ricordato nella vita di D'Annunzio, che è Puccini. Loro ebbero contatti, ebbero rapporti. Lei ha trovato qualcosa? Loro ebbero, a parte che abbiamo dimenticato colpevolmente Mascagni, con il quale D'Annunzio ebbe una grande amicizia e collaborazione, oltre a tentare di sedurgli la figlia, ma con Puccini volevano scrivere un'opera insieme, ci pensarono a lungo, ne dibatterono. Poi i due caratteri erano in fondo troppo simili, troppo esuberanti, erano troppo prime donne entrambi, non si trovarono d'accordo prima ancora di cominciare davvero il lavoro e purtroppo non se ne fece niente, ma l'amore di D'Annunzio per Puccini era sicuro e forte. Ecco, ma proprio al di là di Mascagni avremmo potuto, che so io, omaggiarlo con una cavalleria rusticana, con qualcosa del genere, ma lasciamo pur magari a un'altra occasione, tanto lei, diciamo così, è abbastanza difficile da trovare, caro Giordano Bruno-Guerri, ma ogni tanto la catturiamo, una volta ogni 3-4 anni, insomma, ecco, quindi. Ma qui io mi chiedo se con Puccini non ci fosse anche, diciamo così, una sorta di rivalità per le conquiste femminili, perché Puccini non scherzava, insomma, c'era addirittura un avvocato a Torino. Non scherzava affatto, ma con D'Annunzio c'era poco da, non c'era confronto, perché lui era scientifico addirittura delle sue conquiste. Pensi che aveva degli emissari negli alberghi più belli del lago di Garda che gli segnalavano l'arrivo di una bella donna che avesse le caratteristiche necessarie per piacergli, dopodiché lui si avventava come un falco sulla preda. Ecco, ma non so se Puccini arrivasse a tanto. Ma no, dicevo che c'era un avvocato a Torino, ne aveva talmente sedotte per la prima di Bohème che questo addirittura non chiedeva più neanche i motivi, diceva mi dica subito la cifra signorina, insomma, che arriviamo a riscuotere, ecco. Per cui non ci sono problemi da questo punto di vista, proprio, cioè, c'è una rivalità che effettivamente D'Annunzio diventa scientifica, con D'Annunzio diventa scientifica, con Puccini diventa veramente onerosa, ma al di là di questo poi Puccini ha altre storie e tutte un po' affascinanti. Senta Giordano Bruno Guerri, abbiamo un minuto, quindi le lascio semplicemente il microfono per fare i saluti e per fare un invito ovviamente. Beh, l'invito ad assistere ai prossimi spettacoli del Vittoriale, abbiamo ancora The National, altre cose che potete trovare sul sito Anfiteatro del Vittoriale, e concluderemo il 2 agosto con Il Mercante di Venezia, con Giorgio Albertazzi, grande interprete d'Annunziano, per la regia di Giancarlo Marinelli. Ma tutti gli anni gli spettacoli del Vittoriale si rinnoveranno in luglio e agosto, ma il Vittoriale è aperto tutto l'anno tranne a Natale, il 1 gennaio, e ogni giorno è buono per un viaggio nella mente di quest'uomo straordinario nel suo tempo. Bene, grazie Giordano Bruno Guerri per essere stato con noi e per averci regalato un'ora del suo tempo. Io do appuntamento come sempre ai nostri ascoltatori domenica prossima. In agosto saremo qui, non vi abbandoneremo neanche una trasmissione, quindi un cordiale saluto da Armando Torno e da Giordano Bruno Guerri. Viva la musica!